Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente, come vi hanno in parte già anticipato i nostri GR24, le parole del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella relazione annuale che si tiene sempre a fine maggio, sia sul fronte interno, e per interno mi riferisco all'andamento dell'economia italiana, all'effetto di alcune riforme e iniziative prese dal governo e allo scenario sul sistema bancario di cui la Banca d'Italia è il vigilante, nel caso specifico sulle banche popolari, sia per quello che riguarda la Grecia. Sulla Grecia in apertura daremo anche gli ultimi aggiornamenti, visto che sembra che ormai l'accordo si possa fare, lo ha annunciato lo stesso ministro delle finanze greco Varoufakis. Di questo ci parleremo. Parleremo anche della riforma della pubblica amministrazione, visto che inizia l'appuntamento con quello che è probabilmente l'appuntamento più importante da oggi fino a dopodomani, fino a giovedì, la 26ª edizione del Forum PA, che è l'evento, uno potrebbe chiamarlo anche quasi una fiera della pubblica amministrazione. 23.000 iscritti ai vari eventi programmati, ha aperto ufficialmente i lavori il ministro Mariana Madia, e ci occuperemo anche della riforma della pubblica amministrazione. Per quello che riguarda la borsa, invariata secca oggi Milano 0,00 in questo istante, mentre Parigi perde lo 0,81, Francoforte meno 1,70, Londra meno 1,20. Vale la pena ricordare anche l'euro, che è a quota 1,08, quindi è sotto quota 1,11 sul dollaro. Tra i titoli, bene, Ferragamo più 3,30, Fiat Chrysler più 3,15, Finmeccanica più 2,70, Tod's più 1,80. Oggi bene sostanzialmente quasi tutto il lusso, Luxottica più 1,26%. Su questo anche il leggero reindebolimento dell'euro aiuta il settore del lusso. Per quello che riguarda, e tra l'altro da giugno la Cina ha annunciato che dimezzerà i dazi sulle importazioni per i beni di lusso. Oltre ai titoli già citati, bene la Pop Milano più 1,40%, Exor più 1,20% come appunto Luxottica, CNH più 1,12%. Chi perde oggi? Beh, insomma, di nuovo abbiamo il Monte dei Paschi di Siena, di questo ci occuperemo. Abbiamo sia il fronte diritti che il fronte azioni. Monte dei Paschi di Siena meno 9,12% sui diritti, meno 17% sulle azioni, questo dopo l'aumento di capitale, molto male giudizio. Adesso l'abbiamo spiegato anche ieri, che può essere tecnico e complicato spiegarlo. Il titolo però è che il titolo, scusate gioco di parole, è che il titolo Monte dei Paschi va molto male in borsa nel secondo giorno di aumento di capitale. Ancora l'ultima cifra è quella per i vostri sms, 349-238-6666, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Molto da aggiungere sulle notizie in breve oggi, al di là di quelli che saranno approfondimenti del nostro programma, se non un'operazione che a questo punto è ufficiale. Uno dei quattro giganti statunitensi del settore della TV via cavo, del web ad alta velocità, diciamo, e della telefonia, si chiama Charter Communication, ha raggiunto un accordo per acquistare Time Warner Cable. L'operazione è un'operazione enorme, vale 55 miliardi di dollari e creerà il nuovo colosso americano statunitense delle comunicazioni, praticamente quasi 24 milioni di clienti in 41 stati americani, da New York a Los Angeles, passando per Dallas. Tra l'altro questa fusione arriva quasi un mese esatto dal no, invece, dal blocco dell'operazione da parte dell'antitrust americano alla fusione tra Time Warner, sempre, e Time Warner Cable e Comcast. Allora, dicevo poche le notizie in breve oggi, prima di passare alla Grecia. Uber, se ne è occupato anche il nostro GR24, il Tribunale di Milano ha disposto il blocco di Uber Pop, che è uno dei servizi messi a disposizione dalla app Uber, quella che i tassisti combattono perché dicono che gli fa concorrenza sleale. Uber Pop era quella, se vogliamo, più aggressiva delle offerte. Tra l'altro il blocco vale per tutto il territorio nazionale, il blocco disposto dal Tribunale di Milano, con inibizione alla prestazione del servizio. Quindi accolto il ricorso presentato dall'associazione di categoria dei taxi, che definivano la concorrenza di Uber Pop una concorrenza sleale. Dice infatti la sentenza: interferisce la app Uber Pop interferisce con il servizio taxi organizzato dalle società e svolto dai titolari di licenza. La concorrenza sleale perché? Perché la richiesta di trasporto trasmessa dall'utente mediante l'app Uber Pop, oltre a essere una modalità tecnica già utilizzata dalle cooperative di tassisti, appare di fatto del tutto assimilabile al servizio radiotaxi. E poi il giudice continua, dice che con l'app Uber Pop si accaparra la clientela senza i costi che invece deve sostenere il servizio di radiotaxi, uno sviamento di clientela indebita. E tra l'altro spiega anche la sentenza che senza i costi inerenti al servizio taxi gli autisti Uber Pop possono applicare tariffe sensibilmente minori rispetto a quelle del servizio pubblico. Ovviamente festeggiano i tassisti, finalmente qualcuno che decide. E poi rinviati a giudizio per evasione fiscale Paolo e Nicola Bulgari, eredi dello storico marchio del lusso Made in Italy. Lo ha deciso il GIP di Roma, Bernadette Nicotra, assieme ad altre 11 persone mandate a processo per una presunta maxi evasione. Secondo l'accusa, i vertici di Bulgari avrebbero creato dal 2006 una costellazione di società all'estero in modo da frodare l'erario italiano. La strategia scelta dai vertici della holding del lusso era sostanzialmente basata sulla riallocazione dei margini mondiali di guadagno del gruppo Bulgari tramite controllate estere in stati diversi dall'Italia, Svizzera, Olanda e anche Irlanda. Allora, la Grecia e poi la Banca d'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La, tra virgolette, perché con la Grecia e con le trattative in corso la prudenza è d'obbligo, ma insomma quella che appare a tutti gli effetti una vera e propria svolta nello stallo che si era generato e che riguardava il pagamento che deve fare la Grecia a inizio giugno di una rata al Fondo Monetario. In tutto a giugno deve pagare 1,2 miliardi di prestiti ottenuti dal Fondo Monetario Internazionale. Messaggi sul Monte dei Paschi. Sì, sommando azioni e diritti, quello che abbiamo fatto anche ieri, insomma, meno 16,8%, meno 9,30%, se si sommano azioni e diritti, il Monte dei Paschi è sotto ai minimi da sempre. Infatti abbiamo definito l'andamento del titolo in borsa come un andamento pesantemente negativo, non certo leggermente negativo. Allora, la Grecia, Varoufakis pagherà, non lui, ma la Grecia, la rata da 312 milioni che scade il 5 giugno, che deve al Fondo Monetario il 5 giugno, perché, ha detto il ministro delle finanze greco, per allora sarà raggiunto l'accordo con i creditori. Ha annunciato anche una tassa sulle transazioni bancarie è una sanatoria, una specie di scudo fiscale, potremmo chiamarlo noi, sui depositi occulti all'estero che verranno tassati, potranno emergere tassandoli al 15%. Non escludo tassa sui prelievi bancari, ha continuato Varoufakis. Plauso, diciamo, da parte di Berlino. Il governo tedesco ha espresso soddisfazione per l'intenzione di Atene di pagare la prossima rata che la Grecia deve al Fondo Monetario. Ieri ricordo che il premio Nobel Paul Krugman ha lanciato una provocazione dalle pagine del New York Times sulla vicenda greca, che segue da mesi, da anni, con attenzione. Ha detto che il vero rischio per l'Unione Europea è, in caso di un'uscita dall'euro e dopo un inevitabile periodo di turbolenze e difficoltà, che l'economia greca inizi realmente a risorgere, e quindi la tentazione di abbandonare l'euro potrebbe essere seguita da altri paesi. Di Grecia chiaramente ha parlato, delle tensioni, delle conseguenze che potrebbe avere, ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia nella sua relazione annuale. Le ha definite tensioni potenzialmente destabilizzanti. Il riacutizzarsi della crisi greca ha avuto ripercussioni finora limitate sui premi per il rischio sovrano nel resto dell'area, riflettendo le riforme avviate in molti paesi, i progressi conseguiti nella governance europea e negli strumenti a disposizione delle autorità per evitare fenomeni di contagio. Non di meno, le difficoltà delle autorità greche nella definizione e nell'attuazione delle necessarie riforme e l'incertezza sull'esito delle prolungate trattative con le istituzioni europee e con il Fondo Monetario Internazionale alimentano tensioni gravi, potenzialmente destabilizzanti. Nell'interesse di tutti i paesi e l'area dell'euro, la crisi va governata. Ora, io non voglio fare anche oggi l'approfondimento sulla Grecia, però la Grecia, le sue responsabilità, Tsipras e Varoufakis hanno un po' giocato all'inizio e hanno fatto innervosire i partner, però quando diciamo, come dicevamo anche ieri, che non si può chiedere alla Grecia quello che la Grecia non riesce a darti, di ripagare questo debito, è inutile continuare a prendersi in giro per l'orgoglio o la testardaggine tedesca, lo diciamo anche perché la Grecia in effetti è un paese non in ginocchio così perché deve pagare, ma per i tagli che ha fatto. Allora, la Grecia ha un PIL che valeva nel 2010 180 miliardi di euro, ha effettuato tagli per 28 miliardi di euro. È come se l'Italia, a parità di PIL, in proporzione scusate, avesse fatto tagli per 234 miliardi. Noi mettiamo in finanziaria tagli della spesa pubblica che valgono 4, 5, 6, Cottarelli se l'ha spinto a dire 8 miliardi su 800 miliardi di spesa pubblica. Immaginate se noi avessimo tagliato di 234 miliardi, non mi dite magari, perché la spesa per beni intermedi vale circa 140 miliardi di euro, vuol dire che avremmo dovuto tagliare stipendi pesantemente, gli stipendi dei medici, degli infermieri, dei poliziotti, degli insegnanti. Avremmo un paese, io non so neanche se in ginocchio, avremmo un paese in rivolta secondo me. Comunque, pensate che nei primi 4 mesi di quest'anno i trasferimenti agli ospedali pubblici, qui parliamo di sanità pubblica in Grecia, sono passati dai 650 milioni di euro del 2014 a 43 milioni, cioè praticamente forse nemmeno la manutenzione riescono a fare. Il responsabile di uno dei principali ospedali di Atene, l'Elpis Hospital, guadagnava nel 2010 7.400 euro. No, tanti, pochi, forse tanti, non lo so. 7.400 euro. Sapete quanto guadagna adesso? 1.200 euro. Voi immaginatevi i dirigenti di una ASL italiana che passano da 7.000 euro lordi a 1.200 euro. Questo per dire com'è la situazione in Grecia, non per dare ragione ai greci, ma per far capire quanto ottusa sia l'atteggiamento della Germania e dei paesi satelliti. Vabbè, anche il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, a margine della Banca d'Italia, dell'Assemblea della Banca d'Italia, ha detto: attenzione, la tragedia di Atene non diventi una strage delle speranze. Il rischio sulle banche italiane come rischio diretto è molto molto limitato, quasi irrilevante. Il rischio è indiretto per l'economia produttiva tutta, per la Repubblica, per le imprese tutte in genere e per le famiglie. Nella sostanza dei fatti sono gli impegni della Repubblica italiana nel complesso dell'Unione Europea che verrebbero a costare se la Grecia salta, e penso che siano molto importanti gli sforzi di questi giorni, di queste ore delle autorità europee, innanzitutto della BCE, per evitare che ci sia il default greco. Io penso che le subordinate indeboliscono la principale e di conseguenza bisogna battersi per la principale per evitare il fallimento greco, costringendo le rappresentanze della Repubblica Greca a fare una trattativa con le autorità europee che non sia basata sui ritmi e le metodologie dell'antica tragedia greca, ma che siano su metodologie, chiarezza e prospettiva almeno a 5 anni di un nuovo rapporto di stabilità trasparente e di reciproca fiducia. Insomma, non è che proprio per quello che conta sia così d'accordo con Patuelli, nel senso che sicuramente la Grecia deve, non può continuare a vivere la giornata anche in fase di trattative, però insomma, le banche hanno avuto un colpo quando è stato rinegoziato il debito, un 50% in meno, ma nel frattempo l'esposizione della Grecia, che era tutta verso le banche nel 2010, mo è tutta verso i cittadini europei. Questo vale per le banche tedesche, le banche francesi e anche le banche italiane. Cioè, ormai i debiti della Grecia sono tutti verso gli stati, quindi verso noi, non più verso il sistema bancario. A mio avviso si poteva anche commentare qualcosa sul modo in cui l'Europa aveva condotto le trattative. Comunque, veniamo all'Italia, perché Visco anche d'Italia ha parlato. La ripresa può consolidarsi nei prossimi trimestri. Non sopravvalutare i rischi del quantitative easing della BCE, non c'è nessun segnale di bolla, quindi contesta sostanzialmente quanto ha detto in maniera un po' estemporanea il presidente della Consob 2 settimane fa, Vegas, sul rischio bolla. E poi ancora, dicevo, bene, sempre il governatore Visco, bene le riforme del governo, ma occorre ampliarle e accelerarle, i benefici non saranno immediati, ma è un motivo in più per agire. Partiamo dalle prospettive del PIL delineate dal governatore della Banca d'Italia. Anche in Italia, pur in un quadro più debole di quello dell'area, si è avviata la ripresa. All'accelerazione delle esportazioni si accompagna un recupero della domanda interna. Prosegue il rialzo della spesa delle famiglie, soprattutto per beni durevoli, anche grazie alle migliori prospettive del reddito disponibile. La dinamica degli investimenti è tornata positiva. Secondo le valutazioni delle imprese, potrà rafforzarsi nel corso dell'anno. L'aumento del PIL nel primo trimestre interrompe una lunga fase ciclica sfavorevole. Proseguirebbe nel trimestre in corso e in quelli successivi. Riforma del governo, allora, ha fatto molto discutere, molti titoli d'agenzia, la frase del governatore Ignazio Visco che ha detto l'indagine di Banca Italia sui bilanci delle famiglie indica che il 90% circa del bonus fiscale, i famosi 80 euro, sarebbe stato speso e che nei primi mesi del 2015 la quota delle famiglie che segnala di arrivare con difficoltà alla fine del mese si sarebbe lievemente attenuata rispetto a un anno prima. Immagino le risposte, ecco il governatore Filo Renziano, insomma, lui cita l'indagine della Banca d'Italia, ha detto che comunque si è lievemente attenuata la quota delle famiglie che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, non ha detto il miglioramento grosso, però insomma prendiamo atto di quello che dice la Banca d'Italia. E sul Jobs Act, ha detto sempre il governatore Ignazio Visco, è ancora prematuro un giudizio, ma è positivo l'aumento delle assunzioni a tempo indeterminato nei primi mesi del 2015. Qui chiarisco io, quello è innegabile che le assunzioni a tempo indeterminato, l'abbiamo raccontato anche ieri, siano, l'ultimo dato è 70.000 in più se non ricordo male. Altra cosa, i nuovi assunti, cioè chi prima non lavorava, la differenza, il dato di ieri è di 7.000 persone rispetto all'aprile del 2014, quindi il mercato del lavoro è rimasto fermo, 7.000 in più. Quello che è cambiato è, all'interno di chi aveva un lavoro, è migliorata la qualità del contratto, che è un po' il ragionamento che fa anche il governatore Visco. I recenti provvedimenti di riforma del mercato del lavoro hanno esteso i meccanismi di sostegno del reddito dei disoccupati e ridotto per i nuovi contratti il disincentivo alle assunzioni a tempo indeterminato connesso con l'incertezza sugli esiti della risoluzione dei rapporti di lavoro. Una valutazione compiuta degli effetti di questi provvedimenti è prematura. La dinamica dell'occupazione riflette ancora la debolezza della domanda e gli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. La forte espansione delle assunzioni a tempo indeterminato nei primi mesi del 2015, favorita anche dai consistenti sgravi fiscali in vigore da gennaio, è un segnale positivo. Suggerisce che con il consolidarsi della ripresa l'occupazione potrà crescere e orientarsi verso forme più stabili. Poi del resto di ciò che riguarda, diciamo, il tema più di carattere bancario e finanziario parleremo nella seconda ora del programma. Vi anticipo che Visco ha detto che il credito migliora ma le sofferenze pesano ancora molto, ha parlato anche della bad bank, quindi l'ipotesi di una banca dove far confluire tutte le sofferenze bancarie, cioè i crediti che le banche non riescono più a rivere indietro, e ha detto basta che la discussione sia rapida. E poi un plauso l'ha dato anche alla riforma del mondo delle popolari per le banche popolari che hanno asset superiori agli 8 miliardi, facilita il credito e le BCC varino da sole un'autoriforma con forme di integrazione, ma ripeto, ne parleremo tra un attimo. Adesso al meteo la pubblicità e poi di nuovo in diretta 349-238-6666, la pagina di Focus Economia, poi sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti. Allora, il Monte dei Paschi di Siena, secondo giorno di aumento di capitale, poi torniamo sui temi del governatore, ma insomma, se uno somma i diritti al valore dell'azione, hai meno 16% su Banca Monte dei Paschi, meno 16,82%, poi hai su Banca Monte dei Paschi Siena AA meno 9,28%, la somma tra diritti e azioni porta il titolo a un minimo pesantissimo. Ora vorrei capire cosa sta succedendo, anche perché sul Monte dei Paschi praticamente è come se avesse perso più del 15% nel secondo giorno di aumento di capitale, da 3 miliardi, che è un aumento molto diluitivo, cioè chi aveva le azioni del vecchio Monte dei Paschi fino a due giorni fa si ritrova con azioni molto molto diluite, sono 2 miliardi e mezzo di nuove azioni a fronte di 255 milioni di titoli adesso esistenti, praticamente sono 10 nuove azioni ordinarie per ogni azione vecchia posseduta al prezzo di 1,17 euro. Va avanti fino all'8 giugno, i diritti sono esercitabili fino al 12 giugno, e a quel punto scopriremo, a operazione conclusa, quali saranno i nuovi azionisti, la nuova composizione dell'azionariato di Rocca Salimbene, del Monte dei Paschi. E da luglio entrerà, almeno per 6 mesi, anche il Ministero del Tesoro, perché convertirà i 243 milioni di euro di interessi sui Monti Bond, e dopodiché inizierà anche la partita per capire chi prenderà il posto di Profumo, che all'ultima assemblea ha accettato la riconferma ma a tempo, cioè solo come presidente Monte dei Paschi, solo finché va avanti l'aumento di capitale si conclude. Raffica, dicevo, sia ieri che oggi, di vendite sia sui diritti e quant'altro. La Fondazione Monte dei Paschi ha comunicato di essere scesa la scorsa settimana dal 2,5% all'1,55% nel capitale del Monte dei Paschi e la quota che, su cui sottoscriverà l'aumento, ma insomma ormai ridotta veramente a un soggetto minore come partecipazione. Vorrei parlarne con l'amministratore delegato di Assiteca SIM, Roberto Russo. Buonasera. Buonasera a voi. Voi fate consulenza finanziaria e poi parleremo anche della parte vera e propria. Oggi chiaramente molti colleghi, molti giornalisti hanno raggiunto sia Viola che Profumo a margine della Banca d'Italia. Fabrizio Viola, l'amministratore delegato, ha detto: sono fiducioso sul buon esito dell'aumento di capitale, il mercato sta reagendo come la volta scorsa, ci vorrà qualche giorno di assestamento, ma sono fiducioso. Profumo invece ha detto: per l'addio aspettiamo l'aumento di capitale. Il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Marcello Claric, ha detto: io ho già in mente chi potrebbe prendere il posto di Profumo, forse qui lo trovo, era la Banca d'Italia come battuta. E poi BTG Pactual, che è sceso dal 2 all'1,9, tra l'altro il patto parasociale che lega la Fondazione Monte dei Paschi, BTG Pactual e Fintech è sceso al 5,48% delle azioni. Lei ha un compito molto delicato, dottor Russo. Spiegarci che cosa succede e soprattutto, visto che molti ascoltatori hanno anche azioni nel Monte dei Paschi, cosa deve andare a vedere uno sui listini e poi quando somma il meno 16% sulle ordinarie e il meno 9,28% sui diritti? Sì, effettivamente devo dire che i poveri azionisti del Monte dei Paschi nell'arco di 10 giorni hanno dovuto subire prima un accorpamento 1,20, dopodiché l'aumento di capitale con le rettifiche sul prezzo, quindi cercando di far capire minimamente che prezzo più o meno oggi quota Monte Paschi. Come lei giustamente ha detto, bisogna sommare il prezzo dell'azione 1,78, il prezzo del diritto in questo momento 5,57 in chiusura, la somma dei due fa 7,35. Cioè, dividendo per 20, quindi tornando a dei parametri di riferimento comprensibili, cioè al pre-aggregazione, al pre-accorpamento, 7,35 diviso 20, per capirci, è come se quotasse 0,3675 prima di tutte e due le operazioni. Questo è chiaramente un prezzo veramente molto basso del Monte Paschi. Perché è così bassa durante l'aumento di capitale un'altra volta? Ma da un lato detto che Monte dei Paschi hanno detto tre cose. Nel primo trimestre del 2015 la banca ha realizzato un risultato operativo lordo pari a 614 milioni di euro contro i 298 dell'anno precedente, cioè più 105%. Miglior risultato del panorama bancario italiano. Nel primo trimestre sempre ha realizzato 160 milioni di utile, di utile operativo netto contro 193 di perdita dell'anno precedente. Quindi c'è qualcosa che non quadra. E nel primo trimestre 2015, dopo 12 trimestri negativi consecutivi, nonostante abbia di nuovo effettuato rettifiche per 490 milioni sui crediti, finalmente ha chiuso in utile netto di 72 milioni di euro. Cioè lei dice, nonostante le rettifiche, nonostante tutto, i dati del primo, il bilancio del primo trimestre è notevolmente positivo. Direi che in termini proprio relativi è il miglior risultato di tutte quante le banche italiane. Mm-hmm. Ma come mai Monte Paschi continua a essere bombardato? Io mi permetto di dire che il vero responsabile si chiama Banca Centrale Europea. Perché? Perché se l'anno scorso avessero avuto l'onestà intellettuale di dire nel mese di marzo a Viola e Profumo che non bastavano 5 miliardi di euro, ma ce ne volevano 8, perché ricordiamo quando fecero il primo aumento di capitale, diciamo. Certo, perché dopodiché, dopo 4 mesi, basandosi sempre sui risultati di bilancio al 31-12-2013, perché gli stress test facevano riferimento agli stessi dati che Barroso ha dato a Viola e Profumo suggerendo l'aumento di capitale di 5 miliardi, cioè al 31-12-2013. Questi hanno detto a novembre no, non bastano, perché con gli stress test andreste sotto, quindi altri 3 miliardi. Il mio unico responsabile è quello. Poveri azionisti, aggiungerei, perché è chiaro che se tu dopo un anno imponi un'altra volta una ricapitalizzazione onerosissima, perché sempre per far comprendere agli azionisti e ai radiospettatori, in questo caso chi aveva 100 euro prima dell'aumento ne deve sborsare 125, cioè questo, come ha detto lei, è un aumento di capitale onerosissimo e la gente non ha tutti questi soldi. Chi aveva 10.000 euro lei prima dice dell'aumento, obbligati, spieghiamo perché non dice, l'aumento di capitale è volontario, aspetta, perché se tu hai comprato, hai partecipato all'aumento di capitale da 5 miliardi dell'anno scorso, esatto, e poniamo, hai messo questi famosi 100 euro, ne hai messi 1000, Beh, volontario un paio di niente, perché nel momento in cui io poi ti dico, guarda, o partecipi o praticamente la tua partecipazione, i tuoi 1.000 euro messi non valgono praticamente più nulla, è chiaro che uno deve decidere se partecipare diluendo molto il capitale, però almeno mantenendo la sua quota. Poniamo che tu avessi lo 0,01%, e su quello poi sperare in un aumento del valore del titolo e nell'arrivo dei dividendi, oppure portarsi a casa tutta la perdita, dicendo no, non partecipo, quindi 1.000 euro che ho messo un anno fa vengono diluiti a tal punto per cui ci perdo il 90%. Adesso vado in calcolo mentale, lei lo saprà fare sicuramente meglio di me. Cioè è tra perdere subito una quota molto ingente dell'investimento fatto un anno fa, oppure se comunque tirare fuori dei soldi adesso e sperare che le cose vadano meglio più avanti, in modo da poter recuperare il capitale investito e forse anche con gli interessi. Questo è per... Sì, ma va anche aggiunto che il Monte dei Paschi quest'anno ha fatto tutti questi bei risultati che ho elencato prima senza i 3 miliardi dell'aumento di capitale attuale, quindi anche questo deve lasciare un po' intendere quale sia la logica di far fare questo nuovo aumento di capitale, perché non è che con questi 3 miliardi... Beh, da quello che abbiamo capito noi, allora, siccome i conti sono migliorati senza l'aumento, l'unica logica sono gli stress test europei, cioè esatto. Attenzione che l'Europa ti dice che se tu non fai un aumento di capitale il tuo rapporto tra patrimonio e impieghi, adesso non voglio entrare nel dettaglio, non va bene e non superi gli stress test. Ho capito, a parte il fatto che anche Mario Draghi 2 giorni fa ha detto non basterà l'aumento di capitale a sistemare il Monte dei Paschi, l'ho detto proprio il Presidente della BCE, il suo ragionamento a mio avviso è corretto, perché uno dice vabbè, potevano chiederlo un anno fa e dire 8 miliardi fateli subito, almeno era una botta sola e non andavi a diluire di nuovo, ad ammazzarli dopo un altro anno, prego. Perché sa, se avessero partecipato con un grosso sacrificio l'anno scorso, almeno poi gli stessi azionisti dell'anno scorso ne avrebbero tratto i benefici finalmente di prendersi la ripresa, perché è ineluttabile il fatto che Monte dei Paschi oggi sia una banca completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa. È una banca che fa utile, è tornata alla redditività. Quindi è triste invece pensare che per colpa di un capriccio, di calcoli enigmatici della Banca Centrale Europea... Vabbè, guardi, se lei si riferisce agli stress test, noi non abbiamo mai capito, ma questa è la debolezza anche del paese Italia. Visto che il capo dell'EBA è un italiano, e adesso mi rifaccio visto che ogni volta lo dico io adesso mi faccio ridare il nome. Che ogni volta lo confondo con un altro che... ma è un italiano, questi stress test nessuno mi leverà dalla testa, e quindi debolezza del paese Italia, del mondo bancario italiano che poteva alzare la voce un po' di più, visto che quando vuole la alza in casa nostra, e anche del governo. Andrea Enria, il capo dell'EBA, dell'autorità bancaria europea, e questi stress test penalizzano, come tutte le regole poi di Basilea, le banche che prestano soldi all'economia reale, perché adesso non so spiegarlo, le piccole imprese e quant'altro, e rendono conveniente l'investimento in titoli, non solo in titoli di Stato, ma anche l'investimento in strumenti derivati, per cui abbiamo visto banche inspiegabilmente non hanno avuto nessun problema, banche anche tedesche, dagli stress test, e poi penalizzate le banche che fanno il lavoro che gli si chiede di fare, cioè rimettere in circolo in maniera sana e prudente il denaro che raccolgono, non fare speculazione sui futures derivati o sul prezzo dell'obbligazione di Stato. Comunque, come finirà la vicenda? Ma guardi, quello che io posso dire è proprio perché oggi Monte dei Paschi, nonostante le notizie, perché poi va anche detta una cosa, la lettera di Draghi non è di 2 giorni fa, è del 12 maggio, quindi non mi piace neanche vedere che la stampa riporti una lettera di Draghi come se Draghi ieri avesse detto che non era sufficiente l'aumento di capitale. Guarda caso la lettera esce durante l'aumento di capitale, cioè l'articolo. Draghi in realtà non fa altro che riflettere quello che ha detto la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è il socio occulto di Monte dei Paschi, è l'amministratore delegato occulto, perché dice non mi basta l'aumento di capitale, ma sappi che dovrai ulteriormente rafforzare il tuo attivo patrimoniale, e io oserei dire oggi Monte dei Paschi ha il 51% dei crediti deteriorati coperti da accantonamenti. Quindi in termini di parametri italiani è saltata non solo in media, ma sopra la media delle altre banche italiane. Altro piccolo dettaglio, ma mi permetterei di dire, chiaro, poveri azionisti, ma poiché la banca effettivamente è veramente una banca tornata alla redditività, a me viene il sospetto che qua tra poco entrino davvero dei grossi azionisti professional, perché oggi, per dare dei numeri, il valore per azione corrispondente al patrimonio netto di Monte dei Paschi, un patrimonio netto integralmente revisionato alla BCE, quindi non avremo nuove sorprese tipo l'anno scorso, è 3,40 euro. Oggi il titolo quota 1,78. Quindi è ancora più beffata. Quindi lei dice, al di là degli errori commessi dalla BCE e dall'Europa, che poteva chiedere subito 8 miliardi e non bastonare due volte, cioè meglio una randellata forte ma poi ti curi, che non una randellata e poi tu inizi a curarla e te ne arriva la seconda, che fa obiettivamente più male. E al di là di questo errore, la banca ha migliorato, è un'altra banca, ha migliorato i suoi fondamentali di bilancio e quota praticamente, non dico un decimo, ma quasi quello che dovrebbe quotare, quindi lei è moderatamente comunque ottimista, nonostante tutti questi errori, nonostante il calvario che stanno attraversando gli azionisti, per cui... Il calvario è veramente, i veri danneggiati sono gli azionisti, purtroppo, ma questa volta sono costretti a non so dove trovare i soldi, perché molti non ne hanno la possibilità. Perché se tu hai messo 1000 euro o 10.000 euro, l'alternativa è perdere 9.000, oppure tirarne fuori altri 12, capito? Per partecipare all'aumento di capitale è dura la scelta. Io mi sento di dire che chi dovesse avere la possibilità oggi di sottoscrivere è ragionevolmente nelle condizioni di recuperare addirittura l'investimento dell'anno scorso, perché è la prima volta che la banca è inutile. Questa è la sua valutazione, come tale la prendiamo, ci mancherebbe, non diamo mai suggerimenti, ma va bene anche così. Grazie all'amministratore delegato di Assitech Sim Roberto Russo. Traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Focus Economia. Il resto della borsa, visto che di banche popolari parleremo fra un attimo e anche del Monte dei Paschi abbiamo parlato a lungo, dicevo l'effetto euro ma soprattutto dazi in Cina ridotti sul settore lusso spinge Ferragamo più 3,66, Tod's più 2%, Luxottica più 1%, Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, a te il commento della giornata, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu, quelli sono esattamente i titoli che si sono mossi di più a partire proprio dal lusso. Ricordavi il taglio dei dazi in Cina, che saranno praticamente dimezzati su scarpe, cosmetici e abbigliamento a partire da giugno, hanno sostenuto il settore insieme naturalmente al dollaro che si mantiene forte. Questi sono stati i titoli che si sono messi in evidenza in una giornata in cui invece il listino milanese ha chiuso veramente poco mosso. Il FTSE MIB ha terminato a più 0,18% e comunque ha fatto decisamente meglio rispetto alla media delle altre borse europee. Abbiamo visto ad esempio Francoforte perdere l'1,61%, l'incertezza resta alta sul timori sulla tenuta dell'Eurozona tra trattative in Grecia e avanzata dei movimenti e dei partiti contrario all'attuale politica dell'area, quindi diciamo che gli investitori continuano a sposare un atteggiamento più che prudente. E poi, vabbè, appunto, tu ricordavi l'atteggiamento prudente degli investitori, oggi nessuna notizia su Fiat Chrysler in particolare, c'è un rimbalzo più 3,66%, ne parliamo dopo. Intanto ringrazio Paolo Paronetto, GR24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non posso continuare a rispondere sul Monte dei Paschi, Mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto, anche in maniera molto esplicita, l'ospite che abbiamo avuto, speranzoso visti i conti del primo trimestre, molto critico sul doppio aumento di capitale imposto al Monte dei Paschi dalla Banca Centrale Europea, ma andava fatto in una volta sola. Gli altri titoli commentavamo prima con Paolo Porretto, bene il lusso perché e grazie anche e soprattutto ai dazi cinesi che verranno ridotti, dimezzati sui calzature e abbigliamento da inizio giugno, l'euro aiuta a quota 1,08 oggi, dicevo di Fiat senza motivo più 3,66%, un rimbalzo, bene anche Xor più 1,56%, Finmeccanica più 3, Pop Milano più 1,55%, CNH Industrial più 1,5%, ST Microelectronics più 1,1%, Enel più 0,56%. Invece negativa Eni dello 0,30, Ubibanca di mezzo punto, Intesa dello 0,70, Mediolanum pure, Snam meno 0,8, Tenaris meno 0,9, Buzzi Unicempe dell'1%, Terna pure e anche Saipem. Enel Green Power perde l'1,72%. Migliori e peggiori, Edes più 7,17, aeroporto di Firenze più 4,40, MD Industry Capital più 9,80%, Meridie più 3,80%. E poi Microspore meno 17, Monte dei Paschi abbiamo detto, la Lazio meno 10 dopo la sconfitta, Agronomia meno 7%. E comunque dalle parole del governatore Ignazio Visco sono arrivati anche messaggi per il mondo delle banche popolari, ci mancherebbe. Perché? Perché al di là del plauso che abbiamo già ascoltato ad alcune riforme del governo, Jobs Act e una ripresa che può consolidarsi nei prossimi trimestri, Visco ha detto attenzione, la politica monetaria non è alternativa alle riforme, vanno bene ma occorre ampliarle e accelerarle. Il giudizio sugli 80 euro che secondo l'indagine della Banca d'Italia le famiglie italiane hanno già speso per il 90%, con un leggero una leggera diminuzione delle famiglie che segnalano la difficoltà di arrivare a fine mese, ha definito però prematuro il giudizio sul Jobs Act. Poi dicevo la riforma che il governo ha già varato sulle banche popolari, giudizio positivo, quelle che hanno più di 8 miliardi di patrimonio. Dopo questa legge ha confessato, mi sembra una battuta, diciamo, ha ricordato lo stesso governatore della Banca d'Italia, molte banche stanno studiando le fusioni. Nei mesi scorsi il Parlamento ha riformato il comparto delle banche popolari. I maggiori tra questi intermediari hanno da tempo superato l'ambito locale. Come le altre grandi banche italiane, essi si confrontano oggi con i cambiamenti imposti dall'integrazione economica e dalla tecnologia. La forma cooperativa ha limitato il vaglio da parte degli investitori e ostacolato la capacità di accedere con tempestività al mercato dei capitali in alcuni momenti cruciali per far fronte a shock esterni. La riforma faciliterà lo svolgimento efficiente dell'attività di intermediazione creditizia in un mercato reso più competitivo dall'unione bancaria. Non pochi intermediari, soprattutto di medie dimensioni, stanno valutando operazioni di concentrazione, anche in risposta alle recenti innovazioni normative. I benefici potenziali delle operazioni sono cospicui, ma non scontati. Richiedono interventi decisi sul piano organizzativo, nella realizzazione dei sistemi distributivi, nella gestione dei rischi, nel ricorso alla tecnologia. Non è una novità che la Banca d'Italia vedesse con favore la riforma delle banche popolari più grandi che vengono di fatto trasformate in SPA perdendo il voto capitario, le soglie alle quote di possesso e quant'altro. E non è un mistero, visto che ne parliamo da mesi, che il mondo delle banche popolari stia ragionando sulle fusioni, sulle coppie, un po' come in certi balli in cui c'è la donna da una parte, l'uomo dall'altra e ognuno si deve scegliere. Bisogna capire se poi lì resta qualcuno da solo. Professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera. Insegna politica monetaria della Bocconi di Milano. Le piace l'esempio di quei banchi? Una volta, negli anni 50, si sedevano uno di fronte all'altro e uno doveva scegliere la coppia, la sua partner, diciamo, nel mondo delle popolari. Vorrei un suo commento su questo, ma anche su un altro elemento che le faccio sentire nel passaggio della relazione del governatore della Banca d'Italia. La bad bank, ossia l'ipotesi di una banca dove far confluire tutti i crediti che le banche non riescono più a riavere e appunto si chiamano sofferenze. Lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati, oggi pressoché inesistente, contribuirebbe a riattivare appieno il finanziamento di famiglie e imprese. Proponiamo da tempo iniziative in questa direzione, anche con il concorso del settore pubblico. Stiamo collaborando con il governo a disegnarle nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. È in corso sul tema una discussione con le autorità europee, che auspichiamo sia rapida e costruttiva. Allora, fate in fretta, diciamo, fate presto sulla bad bank, decidete con l'Europa e bene il risico delle popolari. Un suo giudizio su questo e complessivamente sulla relazione annuale del governatore, professore. Troppe domande in una. La relazione annuale è interessante perché dà la dimensione di quello che sarà la Banca d'Italia, una parte del sistema europeo delle banche centrali che collabora alla definizione della politica monetaria e che dovrà avere voce in capitolo nel disegno della vigilanza congiunta. Credo che non sia casuale che inizi parlando di quello, cioè di una mission aziendale, e alla fine finisca per parlare di quello, dicendo che avrà voce in capitolo chi sa farà fare meglio i compiti a casa. In generale credo che anche sulla vigilanza questo varrà, e soprattutto pensando come sono costruiti adesso, nei primi passi, i nuclei di vigilanza, io mi auguro che abbia la voce più forte chi ha le migliori pratiche, non chi è politicamente più forte, senza fare troppi giri di parole. L'Italia ha le migliori pratiche, lo mostrano le nostre performance, siamo il sistema bancario più stabile d'Europa, anche in termini di oneri per i nostri contribuenti che sono stati nulli. Sarebbe un peccato che la voce grossa lo facessero i banchieri centrali tedeschi e francesi, che hanno invece performance molto peggiori. Sì, con una battuta potrei dirle, professor Masciandaro, che è già successo, basta vedere gli stress test, come, che criteri hanno utilizzato, e anche i criteri e la gestione dell'EBA, dell'autorità bancaria europea. Ne parlavamo prima con il nostro ospite sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena, in cui obiettivamente il doppio aumento di capitale si poteva evitare, e soprattutto a noi continua a sembrare che quando si valutano le banche attraverso gli stress test ci sia una preferenza per i modelli centro-nord Europa, e quindi investimenti anche in equity, investimenti finanziari, e una penalizzazione per le banche, nel caso specifico quelle italiane, che avrebbero bisogno ed essere messe nelle condizioni anche di investire di più sulle piccole e medie imprese, sul sistema dell'economia reale. Detto questo, le chiedo un minuto di pazienza perché poi la vorrei sentire anche sulle banche popolari e bad bank o il traffico. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, professor Masciandaro, il tema delle banche popolari da un lato e di questa bad bank, gli ascoltatori chiedono, ma insomma, chi pagherà i costi di questa bad bank? Non è chiarissimo neanche a noi. C'è chiaro invece l'obiettivo, liberare le banche da questa zavorra. Sono 180, adesso prendo la cifra, la vado a verificare, le sofferenze bancarie, 180 miliardi. E liberare le banche da questa zavorra per permettere di prestare i soldi alle imprese che se lo meritano, mettiamo così. Professore, la perplessità degli ascoltatori è la cosa più genuina e più vera. Il punto è davvero capire chi è Pantalone, e l'auspicio che possiamo fare è che si evitino pasticci. C'è una garanzia, il fatto che la Commissione è molto attenta sul tema aiuti di Stato. C'è una preoccupazione, la Commissione qualche volta ha dei comportamenti quantomeno strani, pensiamo al tema dei crediti differiti, quindi possiamo solo fare un auspicio e avere una preoccupazione e sperare che a pagare non siano i contribuenti. Perché il rischio c'è. Sulle banche popolari la interrogo meno perché l'abbiamo già avuta ospite, lei era molto contraria a questa legge, ma ormai è legge. Posso dire una cosa, in queste settimane la definizione migliore che ho trovato della riforma l'ha data il sottosegretario Baretta, ha detto che è una riforma opinabile, sono completamente d'accordo con lui, è basata su un'opinione, non c'è alcuna analisi economica, non c'è alcun risultato che mostri che una grande banca debba essere necessariamente SPA, quindi è un'opinione, è stato un atto politico, possiamo augurarci che ci siano degli effetti positivi. Mi ha colpito oggi nella relazione di Visco il fatto che faccio un'affermazione di cui io non ho alcuna traccia empirica, vale a dire che ci sono state difficoltà per le banche popolari nel raccogliere capitale di rischio, non c'è alcuna traccia. Vabbè, però magari ce l'avrà il governatore. Non so. Ma anche questo è opinabile, non è vero, scusi dottor Barisoni, le due banche che hanno problemi nel raccogliere capitali in Italia non sono banche popolari. No. E sono anche le due che hanno avuto alla fine gli unici problemi con i presunti stress test. Quindi mi spiace molto che la relazione abbia affermazioni, in questo caso davvero opinabili, non c'è alcuna traccia. No, lei sa benissimo che al di là delle affermazioni di Visco ci mancherebbe che invece chi le parla era a favore di una riforma per le banche grandi, perché ci sembrava anacronistico invece la fortezza, il castello blindato del voto capitario, delle quote sulle banche popolari, e anche perché a quelle dimensioni, con quel tipo di profilo, eri una banca SPA tout court, cioè l'idea di mantenere una specifica nel mondo delle banche popolari, delle BCC, dei crediti cooperativi, ha un senso quando tu veramente sei una piccola banca del territorio e a quel punto non vuoi che qualcuno faccia man bassa di una banca che ha un ruolo ancor più mutualistico, se mi passa il termine. Ma non voglio tornare sul, è giusto anche che la pensiamo diversamente, ci mancherebbe, se no non è un programma non è anche monotematico, ma con un'unica idea portata avanti. Vorrei far ascoltare invece alcune delle reazioni al discorso del governatore e poi chiudere su questo. Iniziamo dal presidente Confindustria Squinzi, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Beh, ci sono dei segnali di ripresa, aspettiamo che si consolidino. Comunque la relazione del governatore mi sembra una fotografia giusta di quella che è la situazione attuale. E le riforme, le pensioni? Sono fondamentali. Le pensioni la preoccupano? È una situazione complicata sicuramente. Questi primi dati sul Jobs Act? Vanno consolidati, visti in periodi più lunghi, per un consolidamento. E sempre a commento delle parole del governatore anche il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, sempre al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Anche lui si concentra sulla parte che riguardava la ripresa in atto. Noi abbiamo visto nel primo trimestre di quest'anno un recupero fortissimo delle condizioni dell'economia reale, e tant'è che abbiamo aumentato l'erogazione di credito in misura molto significativa, perché abbiamo erogato 8 miliardi di euro con una crescita del 40% rispetto all'anno scorso. Quindi indubbiamente siamo in ripresa, e questo è un messaggio molto forte e molto positivo che esce da questo consesso, ma anche dai dati della banca, e ricordate che la banca rappresenta l'economia reale dell'Italia, quindi è già molto significativa la nostra visione del paese. Ecco, tra le riforme auspicate dal governatore ce n'è una che secondo lei ha una priorità? Guardi, io credo che più in generale proprio l'atteggiamento del Paese nei confronti delle riforme deve essere quello con cui ha concluso il governatore, cioè dobbiamo fare bene i compiti a casa nostra per poter contare in Europa in misura significativa, quindi tutto il contesto credo che porti a dover lavorare sul pacchetto delle riforme oggi in essere. Allora, professor Masciandaro, la domanda più, non so se perniciosa, forse più maliziosa. La critica che arriva, che abbiamo letto agenzie, siti, dopo le parole del governatore, è un po' diversa. Non è tanto nel merito delle sofferenze della bad bank, delle banche popolari, del credito, è di aver fatto una relazione troppo filorenziana. No, non condivido, nel senso che di solito le relazioni della Banca d'Italia sono talmente equilibrate che la critica può essere, ma non ha detto niente. Invece credo che in questo caso sia coerente con quello che è il consenso internazionale su cosa bisogna fare. Se è così evidente, ormai lo sanno tutti, riforme strutturali da un lato, inclusa una grossa riforma della macchina statale, e se no è solo questione di tempo, si diventa la Grecia. Quindi lei, se ho ben capito, rispetto a altre relazioni, è vero, noi le commentiamo ogni anno, che ci sono state relazioni dei governatori molto, molto, non paludate, ma molto equilibrate, quasi da equilibrista, per essere più corretti, che è una cosa diversa, essere equilibrato e essere un equilibrista nella vita. Certo che l'equilibrista ha bisogno di equilibrio, ma uno che ha equilibrio non è un equilibrista, necessariamente. Questa lei l'ha trovata una relazione più ficcante, più che andava dritto sui temi, nel giorno in cui, appunto, ricordo chi ci ascolta, la Varoufakis ha aperto al pagamento della rata del debito del Fondo Monetario Internazionale. Un ultimo commento, quello della Presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia, sempre sulla relazione del Governatore. Secondo me dei segnali di miglioramento ci sono, certamente rispetto all'anno scorso questi segnali ci sono, c'è qualche miglioramento sugli investimenti, sul consumo interno, le esportazioni stanno andando molto bene, questo evidenzia secondo me anche la capacità quantomeno di un pezzo del sistema industriale di competere. Ovviamente uno 0,7 di crescita non è sufficiente per risolvere il problema dell'occupazione, quindi come il governatore diceva serve uno sforzo delle imprese a fare ancora di più in ricerca e innovazione. Serve uno sforzo da parte del governo di continuare le riforme e soprattutto abbattere ancora le barriere burocratiche che ci sono, e anche su questo il governatore ha fatto un riferimento, e serve secondo me in un momento così evitare assolutamente che la Grecia esca dall'euro, perché questo nessuno secondo me è in grado di prevedere quello che può succedere, ma certamente avrebbe un'implicazione molto negativa, quindi un appello a un accordo in extremis che ha fatto il governatore credo sia importante. Allora, grazie anche a Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore e docente all'Università Bocconi di Milano. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto. Di pubblica amministrazione ci occuperemo domani a lungo, tanto il forum della pubblica amministrazione dura anche domani fino a giovedì, per cui avremo modo di parlare anche dei tagli possibili. Intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.